Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Le brave ragazze vanno in paradiso. Quelle cattive dappertutto, ha detto Mae West, conturbante attrice e sex symbol che dagli anni 30 ha scandalizzato l'America per benista. Ma la sua sfrontatezza, fatta di atteggiamenti maliziosi e battute allusive come la celeberrima «è una pistola quella che hai in tasca o sei solo felice di vedermi?» è nulla se confrontata con le trasgressive e poco eroiche imprese delle bad girls di oggi. Sembra una tendenza, ma spesso è solo una sottile trovata dei maghi del marketing. Fatto sta che con cattive abitudini, stile di vita irrequieto e scelta di compagni improbabili, la prima pagina è assicurata. Lo sa bene Lindsay Lohan, che è passata direttamente dai film per bambini alla prigione e ora è nota alle cronache molto più per qualche arresto che per interpretazioni immemorabili. Bloccata al Festival del Cinema di Cannes, l'attrice statunitense Lindsay Lohan sarà costretta a mancare l'appuntamento obbligatorio in tribunale previsto per oggi a Los Angeles. Come ha spiegato il suo legale, all'attrice è stato rubato il passaporto e dunque non potrà fare rientro in patria fino a che non le verrà sostituito. La 23enne Lohan doveva comparire in aula come parte del regime di libertà vigilata alla quale è sottomessa dopo essere stata fermata per due nel 2007, accusata di possesso di stupefacenti e infrazione al codice stradale. In caso di mancata presenza rischia l'arresto. I talenti precoci spesso crescono troppo in fretta. È quello che è successo a Britney Spears, bionda reginetta del pop con l'aspetto da cheerleader che ha cominciato la sua carriera negli studi di Disney Club. Parallelamente alla musica, che non sempre le basta, seguono nell'ordine matrimonio lampo a Las Vegas con amico d'infanzia annullato dopo 55 ore, altro matrimonio con relativi figli tenuti in braccio mentre guida ad alta velocità, scatto d'ira in cui entra da un parrucchiere, prende in mano un rasoio e si rasa a zero, e per finire clinica di riabilitazione per droga. Niente male per non avere ancora 30 anni. Nessuno di noi vorrebbe trovarsi nei paraggi quando la pantera nera Naomi Campbell sta facendo una delle sue scenate, perché il rischio di venire colpiti da qualsiasi cosa trovi sotto mano in quel momento, per esempio un telefonino, è altissimo. Tantomeno è consigliabile chiedere un passaggio alla cotonatissima diva del soul Amy Winehouse, bravissima e pluripremiata, che per non tradire il suo cognome non si fa mai mancare l'occasione per esagerare con l'alcol. Tra psicosi maniaco-depressive e un marito che entra ed esce dal carcere, la ragazza non si annoia mai. Un problema che invece tormenta l'ereditiera Paris Hilton, famosa per essere semplicemente l'ereditiera Paris Hilton. La party girl non si accontenta di passare le giornate a fare shopping in compagnia del suo fedele chihuahua, ma si inventa di tutto tra un arresto, un video porno e un tiro di cocaina per non mancare le copertine dei rotocalchi. Pur di inseguire il successo, Paris Hilton si è cimentata in tutto, dalla musica al cinema, al reality show, alla scrittura con le sue confessioni di un'ereditiera, e si è perfino calata nei panni della mitica Marilyn, quasi alla ricerca di un'identità mai conquistata. Ma se il suo sport preferito è quello di far tutto pur di far parlare di sé, questa volta la notizia non le fa di certo onore. La miliardaria 29enne americana è stata arrestata a Las Vegas per detenzione di cocaina insieme a un amico al volante sotto l'effetto di stupefacenti. A battere tutte però, in quanto a stravizi ed eccessi, c'è la donna il cui rapporto con la droga è ampiamente documentato in un servizio fotografico del 2005, pubblicato sul Daily Mirror, che dopo aver fatto rapidamente il giro del mondo, le ha fatto meritare il soprannome di Cocaine Kate. Altezza 1,70. Misure 86-66-90. Capelli castano chiaro. Occhi nocciola. Controversa fotomodella e icona di stile, la nostra prima protagonista di oggi è Kate Moss. Kate Moss. Eclettica, sopra le righe, diversa, elegante, bon ton, aggressiva, grunge, classica. Kate Moss è tutto questo, perché lei non lavora nella moda, lei è la moda. Si deve a lei quel miscuglio di stili che oggi domina ovunque, da Parigi a Beirut. È stata lei, la pioniera del vintage, che ha fatto diventare di culto accessori che prima erano considerati semplicemente cose vecchie e immettibili. Abbina capi griffatissimi a pezzi da mercatino delle pulci, certa che solo con la personalizzazione si possa fare tendenze. Non sopporto quelle donne che comprano abiti in blocco, tutto dello stesso stilista. E nemmeno quella a cui magari piace il tubino e si mettono sempre quello. Io cambio continuamente, a secondo l'umore del momento. E giorno dopo giorno mi accorgo che non sono mai la stessa donna. Quando le riviste patinate si divertono a coniare neologismi per identificare un nuovo look, spesso si riferiscono a quello che la Moss ha già pensato da un po'. Per esempio, ha dato lei il via al gusto boho chic. Guardatevi intorno. Forse anche se non lo sapete, le vostre amiche, le vostre figlie o persino voi vi ispirate al boho chic, nel quale confluiscono vari elementi della cultura bohème ed hippie mescolate con un'aspirazione chic, con la voglia di rimanere raffinate. Boho, infatti, sta per bohème, termine che in francese si traduce come zingaro. Ma benché i bohemien originali fossero viaggiatori e profughi dell'Europa centrale, poi la parola è stata associata a figure dalla personalità più disparata, da Gesù Cristo a William Shakespeare, da Sherlock Holmes a Winston Churchill, che arrivato in Canada nel 1943 destò grande sorpresa con il suo abbigliamento originale. La giornalista australiana Laura De Masi è stata la prima a definire Kate Moss boho chic in un 2002 che nel tempo è vicino, ma per le stagioni della moda è già lontanissimo. Lo stile boho chic non è per tutte, perché è un attimo sbilanciare il casual verso la trasandatezza. Invece il segreto è rimanere in equilibrio, saper portare capi che sembrano sovrapposti a caso, ma che invece creano un look nel complesso studiatissimo. Ci vuole disinvoltura e azzardo, e in questo Kate è grande maestra. Gonne lunghe e svolazzanti, gilet di pelliccia, tuniche ricamate, giacche da uomo, stivali da cowboy, cardigan di lana oversize, leggings, jeans stracciati, enormi borse dette boho bag. Se tutto questo parte da Londra, è proprio perché Kate Moss, anche quando si è spostata in altre città per lavorare, non ha mai lasciato veramente la sua amata Inghilterra. Londra ha una periferia infinita, fatta di sobborghi molto diversi tra loro, che vanno da quello residenziale, con le casette ordinate e il giardinetto curato, a quello industriale, dove recentemente vecchi capannoni in disuso sono stati trasformati in loft. Kate nasce e cresce a Croydon, il maggiore per il numero di abitanti, che si trova nella parte meridionale della città. Borghese, a misura d'uomo, verde, è qui che è sorto uno dei primi aeroporti civili sul suolo britannico, servito come principale scalo di Londra fino all'apertura di Gatwick e successivamente di Heathrow. Kate, che viene alla luce nel 1974, è profondamente affascinata da questa storia. Mi piaceva immaginare che fino a poco tempo prima gli aerei partivano di fianco a casa nostra. Da bambina giocavo sempre a fare il pilota e leggevo le storie degli aerei di guerra. Magrissima, Kate è una bambina piuttosto socievole, che nel quartiere, dove ancora non è pericoloso giocare per strada, ha molti amici. Sua madre Linda, a cui assomiglia moltissimo, fa la barista e cerca, arrabattandosi come può, di portare alla famiglia qualche soldo in più. Papà Peter, invece, è un agente di viaggio e le trasmette la passione per la scoperta del mondo. Ogni sera, quando torna dal lavoro, porta a casa cataloghi che sfogliano insieme seduti sul divano, sognando un giorno di fare il bagno in un atollo del Pacifico o di camminare nel deserto fino al primo villaggio abitato. Kate a scuola non è molto brava. Non le piace studiare e ancora meno sottostare alle regole. Risponde male agli insegnanti, prende note, salta le lezioni perché preferisce stare in giro. Nonostante questo, viene considerata una ragazzina molto intelligente, che potrebbe fare moltissimo se soltanto avesse voglia di impegnarsi un po'. In compenso, è disciplinata e molto talentuosa nello sport, la sua grande passione. Corre, si allena tutti i giorni e preferisce la compagnia dei maschi ai passatempi delle sue coetanee, che perdono i loro pomeriggi tra diari segreti, chiacchiere e fantasie. Sono sempre andata molto d'accordo con i maschi, perché sono più diretti di noi, sono trasparenti, litigano e fanno pace con una birra. E invece noi ragazzi ci trasciniamo delle stupidate per troppo tempo. Si parla tanto di solidarietà femminile, ma non è facile trovare amiche donne. Per fortuna io crescendo le ho incontrate, ma sono stata fortunata. Mamma e papà, se stanno insieme, continuano a litigare. È questa la più grande frustrazione di Kate, che si ritrova spesso ad ascoltare discorsi molto più grandi di lei. La sua ribellione viene probabilmente da qui, dai problemi familiari che portano, quando lei ha 13 anni, a un divorzio che affronta malissimo. Come per farla pagare ai suoi genitori, incomincia a fumare, prima di nascosto, e poi davanti a uno e all'altro, sfrontatamente. Frequenta ragazzi più grandi e calpesta ogni divieto. È molto giovane, ma già torna a casa ubriaca, in un periodo in cui ancora i telefonini non li ha nessuno, ed è un attimo farsi prendere dal panico per una figlia preadolescente che non torna a casa. Ma dietro quella maschera da dura, c'è soprattutto una ragazza che soffre. Non so perché, ma ero molto arrabbiata soprattutto con mia madre. Se tornassi indietro non mi comporterei come ho fatto. Adesso siamo molto unite. Sono anch'io una donna. E quando mi ha raccontato cosa provava, mi sono messa a piangere. La 14enne Kate Moss ha un fisico molto acerbo, che è destinato a rimanere tale per tutta la sua vita. Magrissima, viso scavato, 1,70 m scarso di altezza, è davvero diversa dagli standard di bellezza di questo periodo. Siamo alla fine degli anni Ottanta, gli anni del glamour, delle auto di lusso, dei giovani yuppie in carriera, dello scenario dell'apparire. La pubblicità, oltre che sul mercato, detta le regole anche in materia di comportamenti nella vita quotidiana, e l'immagine è la cosa più importante. Mentre le sfilate si trasformano in eventi mediatici che catalizzano l'attenzione dei giornali e delle TV, le top model diventano delle vere e proprie star, il sogno proibito degli uomini e il mito per le donne. Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Elena Christensen, Carla Bruni arrivano a guadagnare cifre da capogiro, fino a 50-60 mila dollari al giorno, che diventano molti di più in passerella. Celeberrima è diventata la dichiarazione di Linda Evangelista: non mi alzo dal letto per meno di 10 mila dollari. Ho sempre voluto fare la modella. Ero giovane. Quella era volutamente una provocazione. Però è vero che le cose andavano benissimo. Non è mai più arrivato un periodo così. La moda era fantastica e noi eravamo delle dive, tutte diverse una dall'altra. Adesso le modelle non si distinguono, sembrano tutte uguali. E quando serve un volto noto, scelgono come testimonial qualche attrice o cantante. Non credo che mi piacerebbe fare la modella oggi. Il passaggio tra le mannequin tradizionali e le top non è un semplice rinnovamento del costume. Segna una grande svolta per quanto riguarda il ruolo della donna, che diventa indipendente, lavoratrice, in grado di fare quello che vuole del suo corpo. Basti pensare che Naomi Campbell è la prima donna di colore a posare per Vogue. Bellissime e irraggiungibili, le super top hanno fatto la storia della moda almeno quanto gli stilisti. Tanto che i loro nomi, anche a distanza di 20 anni, sono sempre sulla cresta dell'onda. Il pericolo anoressia non è ancora un allarme, perché loro sono tutte statuarie, toniche, con le curve nei punti giusti, e mai magrissime come le modelle di oggi. Sembrerebbe, insomma, non esserci molto spazio per Kate Moss, che con il suo fisico da bambina piuttosto bassa e per niente formosa, è lontanissima da quei canoni. Invece, un giorno, qualcuno si accorge di lei. Deve essere scritto nel destino di Kate Moss quel luogo particolare che è l'aeroporto, perché vicino a una vecchia pista è venuta al mondo e in un altro ha avuto il primo incontro importante della sua carriera. Siamo al JFK di New York e la ragazzina sta facendo scalo con papà di ritorno da un viaggio alle Bahamas. Era uno dei loro sogni, quando sfogliavano insieme i cataloghi dell'agenzia seduti sul divano, e ora finalmente sono riusciti a passarci una meravigliosa settimana. È stato indimenticabile quel viaggio con papà. Nella mia vita poi ho viaggiato moltissimo, ma dopo il divorzio e tutto il resto, quella settimana alle Bahamas è stata davvero importante. Il volo è in ritardo e Kate girovaga distratta tra le boutique senza che la sua attenzione venga catturata da niente in particolare. A un tratto urta con la borsa una signora. Si scusa, ricevendo in risposta un sorriso. Anche lei sta aspettando di partire e una chiacchiera dopo l'altra trovano il modo di ingannare il tempo. Succede spesso sul treno, alla fermata dell'autobus o in coda per entrare dal dottore di socializzare, ma in questo caso il destino offre a Kate qualcosa di più di una inaspettata quanto estemporanea amicizia. La signora, infatti, si chiama Sarah Dukas ed è la fondatrice dell'agenzia di moda Storm di Londra, che ha sottocontratto alcune tra le più grandi star della passerella. Quando mi ha fatto i nomi di chi stava lavorando per lei, ho pensato, wow! Naturalmente ho anche pensato che mi stesse prendendo in giro, ma poi, non so, qualcosa mi ha detto che dovevo fidarmi. La Dukas intravede immediatamente qualcosa di unico negli occhi della 14enne. E questo dimostra una grande lungimiranza, visto che il corpo smilzo di Kate, che si cela sotto un maglione oversize, è esattamente l'opposto dei fisici formosi in voga presso gli stilisti. Le lascia il suo biglietto da visita, pregandola di chiamarla una volta rientrata a Londra, e quando la ragazzina esprime tutta la sua perplessità, la navigata Talent Scout risponde quello che risponderà alle riviste patinate di tutto il mondo. È piccola, ma con quel viso e quella grinta cercheranno di imitarla tutti a New York. È così, sulla poltrona dell'aereo, con il foglietto stretto nella mano, Kate si addormenta sognando di trasformarsi da ragazza anonima a modella, proprio come Audrey Hepburn nel suo film preferito, Cenerentola a Parigi. Scusami, vi interessa una visita guidata di Parigi? No, non siamo turisti. Sembriamo davvero come quelle persone che se ne vanno in giro senza far nulla. Per loro è impossibile che qualcuno venga a Parigi per lavorare. Sentite, io suggerisco di andare subito in albergo a riposare un pochino. Io sono praticamente distrutta. Anch'io sono a pezzi. E io sono così stanco che mi riesce difficile anche dire. Arrivederci, ci vediamo indietro. Da un sobborgo di Londra alle copertine il salto non è così facile. Soprattutto perché non tutti sono illuminati come Sarah Dukas. La maggior parte di quelli che lavorano nella moda si adeguano ai canoni in voga in quel momento, certi di andare sul sicuro. Tutti, tranne uno. A destini incrociati siamo a Londra. È il 1988. E a una Kate Moss appena 14enne tremano le gambe al pensiero di fare il provino per entrare nella grande agenzia Storm. Sarah Dukas, la fondatrice, le ha offerto il suo biglietto da visita quando l'ha vista all'aeroporto JFK di New York, in attesa di prendere il suo volo per rientrare in Inghilterra. La ragazza non risponde minimamente ai canoni che la moda vuole in quegli anni, quando le super top sono toniche e formose. Lei invece è uno scricciolo, all'aspetto di una bambina, eppure si intravedono già il fascino e la tempra che la porteranno al successo. Ma per il momento è tutto in salita. Mi hanno fatto mettere in posa e mi hanno scattato delle foto. Vedevo che erano titubanti, ma alla fine mi hanno preso. Credo che per Sara fosse più che altro una sfida personale. Doveva dimostrare di essere così brava da riuscire a vendere persino me. In effetti la scelta ha il sapore dell'impresa eroica. Kate, oltre a essere magrissima, è davvero giovane. Non sa muoversi con disinvoltura ed è in più bassa. 1,70 scarsi, davvero poco per competere con le altre. Però adesso che è lì, tira fuori tutta la sua energia e dimostra di non arrendersi mai, neanche se continua a ricevere dei no. Ai casting spesso non la prendono neanche in considerazione. Di solito la maggior parte delle modelle comincia dalla pubblicità, ma come si può cercare di promuovere un prodotto, pensano gli uomini del marketing, attraverso una tale imperfezione? Kate non ha nulla di quello che dovrebbe avere, se non difetti che le malelingue si divertono a elencare. Eppure, nel marzo del 1990, dopo ben 2 anni di tentativi falliti, Sarah Dukas riesce a strappare per lei un piccolo contratto. Si tratta di un servizio per la rivista britannica The Face, realizzato nella metropolitana di Londra. Ero impacciata. Non sapevo come fare. Il fotografo non aveva modi gentili. Mi urlava di spostarmi di qua e di là. Mi ricordo che quando ho finito il servizio, ancora vestita e truccata, sono scoppiata a piangere, pensando che non avrei mai più voluto fare una cosa del genere. Le modelle iniziano presto, si sa, e hanno carriere normalmente molto brevi, perché poi arrivano le nuove leve e vengono sostituite. La loro vita è incredibilmente complicata. Continui spostamenti da un casting all'altro, viaggi spesso solitari, con tempi così ridotti tra l'arrivo e una nuova partenza che non ti concedono neanche il tempo di una visita. Molte ragazze, per le quali questo è un sogno, probabilmente cambierebbero idea se conoscessero davvero quanto è dura, soprattutto all'inizio, tra fotografi e stilisti esigenti, dai modi bruschi, competitività alle stelle con le colleghe e anni di provini senza avere alcun risultato. Ciao, fammi vedere il cartello. Ok, vai, buttalo. Ok, profilo. Perfetto, bellissimo. L'altro. Bellissimo, ok, fammi vedere le mani, un po' più aperte le dita, fammi vedere, ecco, brava, ok, una bella posa, è un giro a 360 gradi, stupenda, bravissima, girati sensuale, ottimo. Va bene, ora facciamo un dettaglio, guarda, vediamo, partiamo dai piedi, ecco, girati un pochino di tre quarti, benissimo, la vengo su, eh. Bellissima, 360 gradi di nuovo, brava, muovi un po' le anche, benissimo. Ora vengo su e finiamo con un bellissimo sorriso. Figuratevi cominciare questa vita a 14 anni come Kate. Lo spaesamento è il minimo per quella che è poco più di una bambina, ma il suo carattere è già fortissimo quando cade e si rialza in fretta, pronta a rimboccarsi nuovamente le maniche. E la determinazione, unita a un fascino che sta sbocciando, sono armi potentissime. Il servizio di The Face dà a Kate un po' di visibilità, quel poco che le basta per ritrovare la voglia di farcela dopo tutti i no che ha già ricevuto. Ma mentre lei sta sfogliando la rivista nella sua casa di Londra per vedere come sono venute le foto, non può immaginare che dall'altra parte del mondo l'uomo scritto nel suo destino stia facendo la stessa cosa. New York, ufficio del capo di una grande casa di moda. Sulla porta d'ingresso due iniziali che bastano a identificare il marchio, una C e una K. Alle pareti, foto di una giovanissima Brooke Shields nella campagna di intimo. E seduto sulla sua grande sedia di pelle, lui, l'uomo che sui jeans e l'abbigliamento casual ha costruito un business dal sapore tutto americano. Grazie a questo illuminato imprenditore con forte inclinazione allo scandalo, la vita di Kate Moss sta per cambiare. Il suo nome è Calvin Klein. Calvin Klein. Ho avuto un'educazione molto seria, vecchio stampo, e ho capito presto che fare il bravo ragazzo mi stava stretto. Non che abbia mai fatto chissà cosa, semplicemente mi piace scardinare le certezze dei ben pensanti, rompere il perbenismo a tutti i costi, che è solo un'ipocrisia. Milano, Parigi e New York sono considerate le grandi capitali del fashion. Calvin Klein, classe 1942, viene da una famiglia che è sbarcata in America portandosi con sé un po' di Europa. Figlio di ungheresi di religione ebraica, è nato e cresciuto nel Bronx, un quartiere che oggi sta vivendo una grande rinascita, ma che allora è ancora un po' la culla di quell'immigrazione difficile che ci hanno raccontato molti film. Lo sai perché Joe DiMaggio era così grande? Perché era italiano. Beh, anche per questo. Allora perché? Perché aveva più talento di tutti gli altri. Talento? Esatto. Io ce l'ho il talento. Certo che hai talento. Hai tutto il talento del mondo. E potrei diventare un giocatore? Puoi diventare tutto quello che vuoi. Ricordati, la cosa più triste nella vita è il talento sprecato. Puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non fai la cosa giusta non succede niente. Invece se ti comporti bene, dai retta a me, succedono grandi cose. Hai capito? Hai ragione. Andiamo a prendere il gelato. Era il film Bronx, diretto e interpretato nel 1993 da Robert De Niro, che in questa scena parla dell'importanza di assecondare il proprio talento, come i genitori del piccolo Calvin hanno fatto con il loro secondo figlio. Flo e Leo si accorgono presto, infatti, e prima ancora che se ne accorga lui stesso, che la sua strada è la moda. Lo vedono da come lui guarda la nonna, una sarta con un discreto giro di clienti che ha sempre per casa qualcuno a cui misurare l'orlo dei pantaloni o a cui accorciare le maniche di una giacca. Calvin si piazza di fianco allo specchio, posizionato vicino alla macchina da cucire, e osserva per ore come lei punta gli spilli e imbastisce le cuciture. Ormai, ancor prima che sia lei a chiederglielo, prende da solo l'ago e ci infila il filo del colore giusto. Ogni tanto qualche signora del quartiere chiede un vestito per la domenica ed è il divertimento più grande perché i due possono sfogliare insieme i giornalini per modisti e ispirarsi a quello che sta succedendo a Parigi. Avevo una decina d'anni e già sapevo fare tutto. Per la moda poi erano anni bellissimi perché la guerra era finita da qualche anno e i ragazzi stavano dando il via alle prime controculture. È stato lì che ho capito che osare era la mia strada. E così Calvin Klein si iscrive al prestigioso New York's Fashion Institute of Technology, dove le lezioni sono molto teoriche e un po' pratiche, ma per lui non abbastanza. Si rende conto che studiare la storia del costume è fondamentale per chi vuole fare lo stilista, ma capisce anche che si tratta di un mestiere molto empirico. Dopo svariati esami, molla a un passo dalla laurea. Solo nel 2003, con una carriera ormai consolidata a livello internazionale, riceverà un dottorato ad honorem. Ma adesso è giovane, brillante e ha troppa voglia di fare per rimanere fermo con la testa sui libri. Incomincia a fare un praticantato, non sempre pagato, comunque poco, che dura 5 anni. Intanto, realizzando da solo vestiti per alcune boutique di New York, entra con tutto se stesso nel mondo dorato. Sono gli anni 60 e la moda ovunque fa sognare. Ma se l'Italia fa fatica a diventare disinibita, in America sono già molto più liberi. In America hanno inventato il monokini, il famoso topless, in un solo e insufficiente pezzo. Ebbene, noi dalla pudica Italia rispondiamo con il ben più austero trichini, che di pezzi ne aggiunge invece un altro a coprire una posizione strategica. Klein sa due cose con certezza. Che per conquistare il pubblico americano bisogna puntare sul casual molto più che nella raffinata Europa e che la pubblicità, mai come adesso, è importante per catturare l'attenzione. Si tiene bene a mente questi due principi e nel 1968, mentre altrove i giovani sono sulle barricate, fonda la sua azienda con il suo amico d'infanzia, Barry Schwartz. Anche lui, cresciuto nel Bronx, come peraltro molti altri stilisti americani, ad esempio Ralph Lauren. Il destino lo vuole aiutare. Il primo ordine, infatti, i due squattrinati avventurieri lo ottengono per caso. Un uomo sta cercando di acquistare un cappotto e sta andando da Bonwit Teller, un grande negozio di abbigliamento di New York. Ma sbaglia piano ed entra nel laboratorio di Klein. Siccome i cappotti della collezione gli piacciono, non si preoccupa di fare troppe domande e piazza un ordine per $50,000, in quegli anni una cifra esorbitante, che fa strabuzzare gli occhi ai due ragazzi che hanno appena cominciato. Si sparge la voce e con lei i giudizi favorevoli che spingono Klein e Schwartz a non mollare. Nasce la prima linea di abbigliamento sportivo per donne, che inaugura numerose stagioni tutte in discesa. Credo molto nel destino. Quell'errore è stata la conferma che la moda era la mia strada. Già ne ero convinto, ma da quel momento non ho mai più avuto dubbi. A destini incrociati, un ragazzo intraprendente, cresciuto nel Bronx, sta avendo molta fortuna con la sua azienda di moda. Si chiama Calvin Klein e ogni anno vede crescere il suo fatturato. Ha scelto di puntare soprattutto sul casual, sull'abbigliamento da tutti i giorni, uno stile molto americano per il quale i jeans sono di certo il suo più grande alleato. La sua filosofia si basa sul minimalismo, su un'estrema semplicità fatta di colori neutri e toni color terra, come il marrone, in una logica di pezzi sovrapponibili e intercambiabili tra loro per dare il via ad abbinamenti facili e sempre giusti, sia per il giorno che per la notte, così come di stagione in stagione. Ha capito presto però che il talento da stilista non basta. Sono gli anni 80, il grande periodo degli eccessi, e la pubblicità va pensata per avere un forte impatto mediatico, anche a costo di creare polemiche. E così, mentre i suoi pantaloni vengono celebrati per le linee essenziali e pulite, le sue campagne vengono aspramente criticate. Quando per la prima volta ho proposto biancheria intima femminile che ricordava i boxer maschili, si sono tutti scandalizzati. Ero un precursore dei tempi. Ora fa molto più scalpore la normalità. La prima protagonista di scatti controversi è Brooke Shields, 15enne non ancora diventata famosissima grazie a Laguna Blu, che ammiccante e in pose provocanti, fa immediatamente scattare l'allarme pedofilia. Per Klein però tutto questo è solo un gioco, una grande beffa per far parlare di sé e con la quale fa sempre centro. Ma se la sua reputazione ormai è quella di volersi sempre spingere oltre ai limiti dell'accettabilità, è per colpa di una campagna di intimo definita socialmente irresponsabile che, dopo averla notata sulla rivista The Face, ha voluto a tutti i costi la sconosciuta e acerba Kate Moss. Quando i due si incontrano per la prima volta, si capiscono al volo. Calvin finalmente ha tirato fuori la modella che era in me e che ancora non avevo trovato. Prima di incontrarlo ero impacciata, non sapevo cosa fare. Mi sentivo meno bella delle altre. Lui ha voluto che fossi me stessa. Ha legittimato la mia imperfezione. E ha fatto di me quello che sono oggi. Denti leggermente divisi, magrissima, senza seno, volto scavato e lunghi capelli castani. Sono queste le caratteristiche con cui la teenager londinese si presenta al mondo. In video è stampata su enormi manifesti piazzati sulle facciate dei più alti palazzi delle città. Al suo fianco, come altro testimonial per lanciare la nuova linea di abbigliamento intimo maschile, uno slip particolare, denominato poi Calvin's, viene scelto Mark Wahlberg, che sotto il nome di Marky Mark vede decollare la sua carriera di cantante. Kate Moss, androgina, è perfetta per fare da testimonial sia al suo stile che al suo più celebre profumo unisex One, che vende milioni di pezzi in tutto il mondo. Sapevo perfettamente che Kate avrebbe fatto molta strada. Non era come le altre, non era la classica stangona, ma ha precorso i tempi, perché oggi sognano tutte di essere come lei. Sono felice di essere stato io a lanciarla, sono orgoglioso. È una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera. Calvin Klein, grande provocatore, anche se non ha più niente da dimostrare perché nel pieno del suo momento d'oro vuole spingersi ancora oltre. È il 1995 e Kate Moss, grazie al suo aspetto alternativo, viene associata al movimento grunge portato avanti da band come i Nirvana. Dopo la prima campagna di Calvin Klein, tutti si sono accorti del suo potenziale e hanno iniziato a chiamarla per sfilare sulle grandi passerelle di New York, Parigi e Milano, nonché per posare su tutte le più importanti copertine. Harper Bazaar, Vogue, Allure, Elle. Peter Lindbergh, celebre e prestigioso fotografo, l'ha inserita nel suo libro Ten Women, un raffinato volume in bianco e nero dedicato alle donne del momento. Ma nonostante gli impegni fittissimi, il suo mentore viene prima di chiunque altro. E così, quando Calvin Klein la vuole ancora per rilanciare il profumo Obsession, Kate Moss corre da lui come farebbe una figlia. Che? La campagna in cui la Moss appare seminuda suscita enormi polemiche. Ha 21 anni, ma il suo fisico che non cresce rinnova le accuse di pedofilia, tanto che il Dipartimento di Giustizia, su ordine di Bill Clinton, allora presidente, decide perfino di avviare un'inchiesta che porta al ritiro delle immagini dopo appena 3 settimane. Poco male, perché ormai il successo arrivato dall'incontro tra Kate Moss e Calvin Klein è alle stelle e Kate, dopo varie nomination nel 96, è incoronata modella dell'anno ai prestigiosi Fashion Awards. And the winner is Kate Moss. Calvin Klein, CK, come lo chiamano tutti, è un marchio conosciuto in tutto il mondo per il quale le aspiranti modelle sognano di lavorare. Lui, il fondatore, è milionario e sempre entusiasta di quello che fa, tanto che continua tuttora a lanciare giovani talenti. Di Kate Moss, invece, si sente parlare quotidianamente. Nella sua carriera ha sfilato praticamente per tutti i grandi. È diventata una stilista per famose catene low cost ed è arrivata a guadagnare qualcosa come 9 milioni di dollari all'anno. Rincorsa dalle cronache e dal gossip, nel 2005 è stata travolta dallo scandalo cocaina, documentato da eloquenti fotografie pubblicate sul Daily Mirror, nella quale è con il problematico compagno del momento, Pete Doherty, leader dei Baby Shambles. Mi assumo piena responsabilità delle mie azioni. Ammetto anche che ci siano diverse questioni personali di cui mi devo occupare e ho cominciato a fare i primi passi, difficili ma necessari, per risolverle. Voglio scusarmi con tutte le persone che ho deluso a causa del mio comportamento, che ha avuto delle ripercussioni negative sulla mia famiglia, gli amici, i colleghi, i partner commerciali ed altre persone. Disintossicazione, caduta e poi una stella che torna a brillare fino al prossimo scandalo. Perché in fondo lo spettacolo deve continuare. Just